Blue Time. Blue Time Live. Blue Time. Live. Non vi faccio sentire niente di più perché poi sarà una sorpresa per sabato prossimo. Buonasera da Agostino Spolaore, buonasera anche come sempre da... Buonasera caro Agostino. Ciao Maurizio, ben ritrovato. Io sono in mezzo alla folla, nella fossa di leoni stasera come sempre. Allora, buonasera da Blu Radio Veneto. Questa, come dicevo poc'anzi, è la voce di Agostino Spolaore che assieme a Maurizio Calzavara anche questo giovedì sera ha dedicato al live. Un live che in questo periodo, sapete ormai, l'abbiamo detto e ridetto, insomma, un giovedì sì, un giovedì no, c'è cioè il musical, perché Blu Radio Veneto è la media parte, meglio dire, di questa rassegna che si chiama Sognando Broadway, che è partita con Mamma Mia. Adesso sabato prossimo ci sarà Night Lives con la compagnia Accademia, li presenteremo tra qualche istante. Prima, come di consueto, dobbiamo dare i nostri dati. E allora, il numero telefonico in studio è lo 049 875 6423, mentre per i vostri sms, se li volete mandare, e anzi vi invito a prendere carta e penna, a sottolineare questo numero perché vi servirà per partecipare a un gioco. Durante la trasmissione faremo una domanda e avrete diritto, chi indovina ovviamente, a due biglietti per entrare gratuitamente a vedere Night Lives sabato prossimo. Quindi assolutamente da segnarvi questo numero. E una cosa vi chiedo, siccome l'altra volta ci sono stati tanti sms però non mettevate il nome, quindi questa volta invece, oltre a dire la risposta, magari metteteci anche il nome, così almeno sappiamo con chi abbiamo a che fare. Allora, il nostro numero per i vostri sms è il 346 23 20 0 33. Lo ripeto, 346 23 20 0 33. E poi ancora le nostre frequenze 88.700 e 94.600 MHz in modulazione di frequenza, e siamo anche in streaming ovviamente, e quindi potete ascoltarci in tutto il mondo, dove ovunque voi siate. Basta semplicemente andare al nostro sito, cioè www.bluradioveneto.it, lì c'è scritto ascolta la radio, e cliccando lì, insomma, si sente la radio 24 ore su 24 assolutamente in diretta. Credo di aver detto tutto. L'abbiamo detto tutto, Maurizio. Li vuoi presentare tu? Beh, possiamo presentarli assieme. Possiamo beh. Presentarli assieme, ma ti concedo. Innanzitutto io presento l'intestazione Accademia Fonderia dello Spettacolo. È già molto importante, Fonderia dello Spettacolo. Cioè praticamente il musical che stasera sentiamo assieme ai ragazzi, che sono un bel gruppo, una qualificata rappresentanza, ho scritto io, è una qualificata rappresentanza, non sono tutti, però è un'ottima rappresentanza, è una costola dell'Accademia Fonderia dello Spettacolo, vera presidentessa Jacqueline, buonasera. Buonasera, sì, certo. C'è anche Diego che fa parte, che siete i due punti focali del discorso. È verissimo, il musical è il nostro progetto finale di Accademia, dove i ragazzi quando vengono a prepararsi era proprio come idea del palco, e quindi avere il progetto del musical. Esattamente, perché l'Accademia, cari ascoltatori, il musical è una delle tante facce artistiche dell'Accademia. Questa fonderia, è bello dire fonderia dello spettacolo, è una cosa fondamentale, caro Diego, fonderia dello spettacolo, cioè fusione di diversi momenti dello spettacolo. Decisamente, anche perché abbiamo questo nome un po' perché siamo in una fonderia, davvero una vecchia fonderia di Treviso. Benissimo. e in più proprio perché dava l'idea di una fusione a 360 gradi dell'arte, e quindi la nostra impostazione è con una mentalità aperta, non si fa solo canto, musica, non si fa solo musical, ma si fa veramente, si cerca di dare un senso anche alle persone, di tirare fuori il meglio delle persone con l'arte. Ecco, ecco, chi sta parlando è Jacqueline Cecchetto, che è la presidentessa, sì, mentre il direttore artistico e Diego buonasera. Nardini, buonasera Diego. Sì. Quindi Jacqueline ha dato una chiave di volta del sì, progetto, però tu hai avuto l'idea di inserirti nel progetto del musical, hai spinto il musical. Beh, innanzitutto siamo nati da un musical in realtà che abbiamo fatto diverso tempo fa insieme al nostro attuale aiuto regista, nonché il ragazzo che ha scritto anche il copione, che è Pier Francesco Boschin, e con l'idea di Gabriele Bergamo io ho spinto per fare questo appunto inedito, perché si fanno già tanti musical che hanno già un nome, per cui ci siamo puntati per creare qualcosa di nuovo, di divertente, di un po' più fresco e che potesse raggruppare un po' tutti, perché all'interno del musical ci sono dei bambini, perché abbiamo l'Anika che è piccolissima, abbiamo la Elena invece che diciamo è la più anziana del gruppo, poi ci sono tutti i ballerini che sono quasi tutti giovanissimi, sono tra i 15 e i 16 anni, e poi diciamo che quelli un pochettino più maturi sono appunto il gruppo dei cantanti che sono qua presenti, che adesso presentiamo uno alla volta chiaramente. Quindi questa è stata l'idea, di dare peso all'idea di Gabriele, perché potessimo fare qualcosa di importante, inedito. Okay. Certo. Cosa dice Agostino? Di inedito è inedito. Importante questo. Io prima però di addentrarci nel discorso vero e proprio di questa compagnia, credo sia doveroso dare lo spazio anche a Cesare. Certo. Cesare Bortolotto, no, che è il regista, nostro gancio, Cesare, sì, il gancio che ci ha voluto noi Blu Radio Veneto come media partner. Lui, sapete meglio di me, insomma, è anche il regista di Mamma Mia, e quello che assieme a tutti i suoi collaboratori ha ideato questa Sognando Broadway. Io lo chiamo la tappezzeria della radio, ma lui è un carissimo amico. Cesare, se vuoi darci qualche informazione, visto il successo di sabato scorso e visto il successo anche di questa manifestazione, perché so che ci sono già tantissimi biglietti prenotati. Sì, abbiamo, sì, diciamo che ci sono molti biglietti prenotati anche per questo spettacolo. Dicevo prima, parlando prima di andare in onda con i ragazzi, che essendo uno spettacolo inedito è una cosa molto positiva, perché in realtà è più difficile a far venire la gente a teatro con uno spettacolo di cui non si conosce bene il nome. È molto più facile con nomi noti, come ha appena detto il direttore artistico. Loro si sono presi un bel impegno a mettere in scena qualcosa di assolutamente inedito. E questa comunque era anche l'idea di partenza di Sognando Broadway, cioè di far conoscere i vari aspetti che può avere un musical, e non solo quelli che conosciamo dei musical famosissimi, che comunque sono belli e comunque ci sono, però musical sarà anche quello che andremo a vedere sabato, e anche quello fra 15 giorni, che è un altro musical inedito, ecco. Ma tu come li hai scoperti, gli Accademia? Ma io non è che li ho scoperti, loro hanno mandato il materiale per partecipare al concorso, e poi è stato visionato e sono stati selezionati. Ecco. Sono stati approvati praticamente. Sono stati approvati, sì. Questo Sognando Broadway, terza edizione, come sta andando? Allora, È partito molto bene, è partito con Mamma Mia, anche sopra tutte le aspettative, perché dopo averlo fatto per tre repliche l'anno scorso non ci aspettavamo di fare di nuovo il pienone, anzi più del pienone, perché abbiamo dovuto aggiungere posti 15 giorni fa con la gente fuori, e tra l'altro abbiamo deciso, anche grazie al comune, di fare una data aggiuntiva il 24 di novembre, in concomitanza con l'anniversario della prima di Mamma Mia, che sarebbe il giorno dopo La Sirenetta, che è un altro spettacolo in concorso, perciò Agostino si dovrà anche lui accamparsi, come io mi accampo qui, lui si dovrà accampare al palazzetto. È la sesta volta che vi vedo. Esatto. Va bene, Cesare, poi magari ritorniamo ancora con te se hai qualcos'altro da dire. Vi ho interrotto, chi è che stava parlando allora? Entriamo in quello che è il mondo accademia, in quello che è Night Lives. Allora. Si stava parlando di direttore artistico e l'ho invitato a presentare i ragazzi che stasera presentano, cioè rappresentano l'insieme della compagnia. Vai, presentatevi pure. Buonasera a tutti, io sono Sara Semenzato e in questo musical interpreterò la protagonista femminile, Roxanne. C'è un po' di police, Roxanne, no? C'è un po' di police. Così, no? adesso lo scoppiamo. Sting sarà soddisfatto, insomma. E niente, praticamente il mio personaggio, mi rispecchia molto, insomma, è una ragazza semplice, una sognatrice. E ci sarà nella storia poi un colpo di fulmine con il bel Christian. E Roxanne ha sostanzialmente avuto un'infanzia difficile, insomma, una ragazza che ha avuto dei problemi quando era piccola e poi per guadagnarsi da vivere è stata costretta a fare la prostituta sostanzialmente. E quindi la sua il suo datore di lavoro è la perfida Safiria, eccola. Buonasera a tutti, sono Françoise Manuel, io sono Safiria. Eccola. E che niente, la tiene un po' prigioniera al Moulin Rouge, vero? Ma diciamo che io sono la cattiva. Sono della la cattiva situazione. Della situazione, esatto. Io sono il capo del Moulin Rouge. E quindi sì, Roxanne è la mia star, di conseguenza appena Safiria viene a sapere, diciamo, di questo idilio amoroso tra Roxanne e Christian, logicamente non gradisce minimamente l'intrusione del baldo giovine, di conseguenza venite a trovarci così scoprite cosa succede, insomma, in scena. Credo che tu sarai facilmente riconoscibile, però, comunque, senza offesa, eh. Succede sempre. Beh, insomma, io aggiungo solo questo, perché voi sapete, ve l'ho già detto, insomma, io sono in giuria, non posso esprimermi, però ho messo nella mia bacheca l'anticipazione dei demo, insomma, che avete voi su YouTube. François è la cantante che vedete all'inizio del demo, quello in capelli rossi. Eccomi. Quindi è quella, esatto, che vedete lì, e poi ci sono anche gli altri ballerini, eccetera, eccetera. Ma tu sei quella che fa quella parte cattiva, quindi inconfondibilmente sei tu. Io sono. Poi chi c'è che canta allora? Io sono Alessio Bellato, faccio la parte di Christian nello spettacolo. Sono un ragazzo normale, io non ho avuto problemi dell'infanzia. Sono tranquillo a Roma a fare il mio lavoro assieme al mio amico che si chiama Marco. E una sera, mentre si va fuori, si incontrano un sacco di ragazze, però io mi perdo dietro ad una di cui non conosco neanche il nome, perché è la prima volta che vedo. La cosa si ripete e quindi poi decido, insomma, di provarci anche molto ardentemente, però come si sa non è sempre facile con le ragazze, quindi bisogna un po'... Cosa vorresti dire? Non ho capito. Nel senso che lui molte parla volte... della trama artistica, assolutamente. Sì, sì, certo. E quindi un po' questo modo di fare che abbiamo io e Marco ci fa un po' allontanare subito da questa ragazza sconosciuta, che poi io decido di seguire, però in un posto a me sconosciuto, che è la Francia, e quindi Parigi, e senza sapere che cosa succederà. Beh, chiaro. Poi... E sempre col mio amico Marco. Ecco qua Marco, allora. Io sono Simone Damminato e in questo spettacolo interpreto il ruolo di Marco, come abbiamo detto, il migliore amico di Christian. Io invece sì, ho avuto anche un'infanzia difficile. Tutti problematici. No, con Christian, dopo che ci siamo conosciuti, abbiamo aperto un'officina a Roma. E appunto, mm-hmm, una sera, uscendo mentre eravamo in vacanza, ha conosciuto questa ragazza. Io, prendendolo in giro, lo sfido appunto ad andare a inseguirla, che questa ragazza tornava a Parigi, era in Italia solo in vacanza, e lui, credendo che dicessi sul serio, insomma, la insegue, col risultato che, insomma, mi tocca inseguirlo in giro per il mondo e aiutarlo nei momenti di difficoltà, mentre Safiria cerca di mettergli i bastoni tra le ruote praticamente. Safiria, che è la cattiva della, sì, situazione, cattiva Sempre dal punto di vista artistico, chiaramente, assolutamente. Mm-hmm. Sì, diciamo che facendo un riassunto, sono l'amicone sempre con la testa tra le nuvole, che però il più delle volte aiuta. Arriva il momento giusto. Vogliamo sentire le voci invece cantarle? Cosa dite? Ci fate già subito ascoltare una canzone? Cosa ci fate ascoltare? Parto io. Allora, io adesso canterò 10 ragazze per me. Che tutti conosciamo, Battisti. Che tutti conosciamo, chiaramente. Okay. Prego. Ho visto un uomo che moriva per amore. Ne ho visto un altro che più lacrime non ha. Nessun coltello mai ti può ferir di più di un grande amore che ti stringe il cuore. 10 ragazze per me possono bastare. 10 ragazze per me voglio dimenticare. Capelli biondi da accarezzare e labbra rosse sulle quali morire. E 10 ragazze per me, solo per me. Una la voglio perché sa bene ballare. Una la voglio perché ancora non sa cosa vuol dire l'amore. Una soltanto perché ha conosciuto tutti tranne me. E 10 ragazze così che dicono solo di sì. Vorrei sapere chi ha detto che non vivo più senza te. Matto, tu sei proprio matto perché forse non sai che posso averne una per il giorno e una per la sera. Però tu, matto, mi conosci perché hai detto una cosa vera. 10 ragazze per me possono bastare. 10 ragazze per me voglio dimenticare. Capelli biondi da accarezzare e labbra rosse sulle quali morire. E 10 ragazze per me, solo per me. Vorrei sapere chi ha detto che non vivo più senza te. Forse non sai che posso averne una per il giorno e una per la sera. Però tu, matto, mi conosci perché hai detto una cosa vera. 10 ragazze per me. 10 ragazze per me. 10 ragazze per me. Però io muoio per te. Però io muoio per te. Io muoio per te. Tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap. Bravo, bravo. Battisti va sempre bene alla salute, assolutamente. Beh, cosa dici? Vedevo la tua faccia molto contenta, perché per te Lucio è, anche per me ovviamente, insomma, è un grande. Battisti ha questa caratteristica di unire, di coinvolgere sempre. Stasera abbiamo sentito 10 ragazze. Ricordo che tutti hanno cominciato a suonare con la canzone del sole. Tu sì, che suoni la chitarra, Diego, cosa di tutti hanno. A proposito, presentiamo anche il musicista che ti è a fianco, Diego. Sì, infatti volevo, se mi permettete, presentare Marco, perché abbiamo ricevuto questo invito e poi abbiamo scoperto di doversi esibire dal vivo, live. Esattamente. E io sono contento perché è sempre un'esperienza e faccio questo da un po' di tempo. E anche qui Marco, e gli ho fatto un colpo di telefono e gli ho detto: senti, dobbiamo fare delle canzoni in radio con i ragazzi del musical. Lui ha detto ok, e ci siamo trovati. quindi gli cedo la parola, ringraziandolo, perché penso che, insomma, da solo ce l'avrei anche fatta, però così sicuramente è tutto molto più bello. E poi diciamo che in realtà è entrato a parte, a far parte dello staff, così l'abbiamo estrapolato dalla sua realtà e abbiamo detto: bene, adesso sono sei stato scaraventato in questo mondo del musical. Tu hai una realtà blues praticamente. Sì. Cari ascoltatori, me l'ha detto prima. Ah, sì, giusto. Per questo, però, no, però è importante. Legge nella mente. Ah, sì, fate. Come è stato l'approccio dal blues al musical? Anche se il blues e il musical sono collegati, c'è un collegamento totale. Sì, diciamo che io amo il blues, io suono il blues da tanto tempo, ma per me diciamo che non è mai proprio così uno scontro duro con i diversi generi, perché comunque cerco di dare il meglio di me in tutto quello che faccio, e comunque se io amo suonare anche bene o male tutti i generi. Sì, a 360 gradi, sì, se puoi, sì, chiaramente. Sì, naturalmente sì. Mm-hmm. Poi sono canzoni che comunque appunto non sono distantissime, sì, da dal tuo mondo, che è il mio mondo, ecco, diciamo così. Benissimo. Per cui sì, sono molto contento. Di fianco ho il regista, mi pare. Buonasera. Buonasera a tutti. Perché è importante avere di fianco il regista, è fondamentale. Buonasera regista. Buonasera, buonasera. Nome e cognome? Io sono Gabriele Bergamo e in questo musical, oltre che fare il regista, che è qualcosa che mi impegna molto. Quanta gente hai? Circa dai così 40 persone, 35 più o meno. Ha detto Jack Link, che è una cosa molto sì, faticosa. Un po' tra una cosa e l'altra. Tra chi sta, tu sei anche palco, giovane, sta sei anche io giovane. Ho 26 ma il anni. Ma è cattivo il regista. Di solito il regista Cesare non è cattivo, però Cesare fa regista. Anche Cesare ha una certa. Lo chiediamo ai ragazzi. Se io sì, cattivissimo. Perfido. In realtà, mio fratello è peggio. Ah, tuo fratello è peggio. Mio fratello, il coreografo. È peggio. Però anch'io, diciamo che io ho una passione per quello che viene bene. Per cui quando esco in palco con qualcosa, io vengo dal ballo, per cui prima di avventurarmi in questo mondo io vengo dalla danza e prima ancora dal DJ, quindi già quando facevo i contest in discoteca tutto quello che io facevo doveva essere perfetto. Di conseguenza quando usciamo in palco sarebbe buona norma che quello che esce in palco sia non perfetto ma che si avvicini. Quindi quando andate in palco deve essere tutto ok? Assolutamente sì. Assolutamente. E non è una cosa semplice, è una cosa difficile. Anche perché siamo, adesso approfitto subito per svelare un trucchetto, che siamo gli unici in Italia che in questo momento hanno uno spettacolo con una scenografia digitale totalmente in 3D. Però. Proiettata. Ah, questo non lo sapevo. Vedi. E invece vedi che si scopre gli altarini. Perché io di professione faccio il 3D artist, per cui facciamo, ho cercato bene, di, allora, di portare la mia professione anche su questa passione che ho io, insomma. Gabriele, ti interrompo un attimo perché c'è un vostro fans che vi vuole salutare. Pronto? Pronti? Buonasera a tutti. Buonasera. Sì. Buonasera. Niente, io volevo fare i complimenti perché ho visto lo spettacolo ancora la prima volta a Zero Branco e è stato molto bello, mi ha emozionato tantissimo. Fan number one, da dove chiama? Io chiamo adesso da Albignasego. Oilà. Allora, giusto. Sabato veniamo a casa sua. Appunto, avevo sentito questa cosa e niente, sono contento di rivederlo anche. Pronto. Perché sicuramente ci sarò. E volevo fare un complimento un po' a tutti, soprattutto ai cantanti, ai ballerini. Soprattutto una cosa che mi è rimasta molto impressa sono stati i ballerini, quelli di rock and roll. Sono stati veramente formidabili. Riferiremo. Mi sono piaciuti tantissimo. Poi, se posso, volevo chiedere una cosa alla Saffiria. Sì? per te. Sì. Per te. Sì. Volevo sapere. Buonasera. Ma quella tinta di capelli che noi diamo ai cantelli come anti. Ciao, Matt. Io ti ho riconosciuto quando. Sei pessimo. I love you. Io, Matteo, io ti ho riconosciuto appena hai detto ciao. Ciao. Ma lei è stato più bravo di me. Lei aveva quasi fregato. Va bene. Buonasera. Io mi ero già azzardato che eri tu, ma nessuno ci credeva. No. Matteo, no, già che ti sento, Matteo, io non ti conosco, non sei qui, però insomma, tu cosa fai nel musical? Chi sei? Beh, oddio, puoi farti spiegare magari da Gabriele. Allora, noi siamo, facciamo parte anche noi di questo musical, molto, e soprattutto molto contenti di far parte di questo musical. Noi siamo i Doo-Wop Boogie Dancers, siamo una scuola di ballo che principalmente fa boogie woogie, rock and roll, l'indie hop, diciamo, facciamo questo genere anni 50, ecco. E niente, noi ci siamo inseriti insieme, diciamo, alla compagnia, è veramente una bella compagnia. E posso dire che lo spettacolo vale la pena andarlo a vedere, anche perché ci sono io che faccio tante belle cose. Insomma, vale la pena, insomma, farsi, ci sono dei momenti intensi, dei momenti in cui si ride, quindi insomma non ci si annoia mai. Certo. Ecco. Allora ci conosceremo sabato, Matteo. Sicuramente, ecco. se non arriva un cataclisma, ci saremo anche noi. va bene, Matteo, grazie di questa carambata. Grazie a voi. E ci vediamo sabato con te. Buona serata. Grazie. Ciao. Mi è piaciuto lo scherzo? C'è piacere. Mi ha messo così dentro in questo scherzo, mi ha fatto piacere, insomma. L'unica era la Eleonora, che sapeva, l'Eleonora Magri, che anzi sì. Io ne approfitto per salutarla. Complice. E per ringraziarla, perché l'ufficio stampa, che insomma ha collaborato tantissimo con me, ci siamo sentiti spesso in questi giorni, quindi un grazie di cuore Eleonora di essere qui questa sera e anche di avere, insomma, scambiato queste informazioni. Facciamo ascoltare un'altra canzone, anzi però prima di fare ascoltare la canzone, sono 21:27, io direi di fare quella domanda, perché poi magari così... La domanda. Sì, e poi tornando dopo aver cantato, spieghiamo veramente cos'è, cioè la storia. Va bene. Per far capire la gente, perché qui da rock and roll al Moulin Rouge c'è un po' di tutto. Alle 10 ragazze. Alle bande giovanili, perché descrive anche un momento di bande così, giovanili. Bene. Facciamo la domanda. Allora, signori e signori, siamo pronti per la domanda? La domanda di questa sera sarà: qual è la discoteca più famosa degli anni 60 in Italia? Chiamate. Lo sai? Io lo so, ma io non posso dirlo. Io lo so perché l'ho scritto, però. Beh, tu non eri ancora nato, forse no. No, ma ho fatto ricerca per scrivere. Quindi, studiato. Allora, vi ricordo i numeri. Allora, lo 049-875-6423 se chiamate qui in studio, mentre per i vostri sms è sufficiente anche mandare un sms con il vostro nome, mi raccomando. Vi ricordo il 346-2320-033. Rifai la domanda, Gabriele? Sì, la domanda è: qual è la discoteca più famosa degli anni 60 in Italia? Chi vince, il primo che telefona o che manda un sms, ha diritto a ricevere due biglietti gratis per appunto lo spettacolo Night Lives, che adesso però ci sentiamo una canzone. Ci sentiamo. Cosa ci sentiamo adesso? Canto io, Safiria. E la canzone si chiama Welcome to Burlesque, quindi è il benvenuto a questo spettacolo. Prego. Show a little more, show a little less, add a little smoke, welcome to burlesque. Everything you dreamed of, but never can possess, tell me what you need, welcome to burlesque. To the band. You may not be guilty, but you're ready to confess. Nothing's what it seems. Welcome to burlesque. You can dream of cocoa. Grant you mercy, but not your every wish. Jesse keeps you guessing, so cool and statuesque. Behave yourself, South Georgia. Welcome to burlesque. something very dark. Explain what you meant. It's not the end of days. It's just a bump and grind. So little more, so little less, and a little smoke. Welcome to Safiria, che voce che c'hai, Safiria, assolutamente. Una bella voce. A proposito di, parlavamo di blues, è una voce molto, molto nera, assolutamente nera. Hai dato una colorazione nera a questo pezzo, non era nero, però sì, al di là di questo, però giustamente c'è tanto swing dentro, c'è tanta forza, c'è tanta anima, c'è tanto soul. Quindi secondo me è stata un'ottima esecuzione. E c'è un po' di rabbia verso c'è anche un po' di il rabbia. Protagonista. Il protagonista deve avere una rabbia, chiaramente. Che non viene gradito. Esattamente. L'idea di questo musical... No, aspetta, Maurizio, ti interrompo, perché stop alle telefonate, okay, perché hanno già indovinato subito. Ed è Alfonso che ha indovinato. Gabriele, se vuoi rifare la domanda e dire anche la risposta, ovviamente. Insomma. Bene, Gabriele. Allora, la domanda era qual era la discoteca più famosa negli anni 60 in Italia, e Alfonso ha risposto, cosa ha risposto? Piper. Piper, bravo. Vabbè, in realtà ho detto, metti che in Puglia c'era una discoteca che io non conoscevo. Esatto. Tu che sei veneto. Che mi dicevano, oh, ma guarda che in Puglia c'era il... Ma il Piper ha fatto la storia della musica italiana, il Piper. No? Il Piper ha suonato, hanno suonato i Pink Floyd. Ha suonato Bob Dylan, ha suonato tutti. Jimi Hendrix. Tutti. Infatti, quel lui giorno ha detto... che Patti Bravo ha detto: ma che cosa usate quelle luci là? Erano i Pink Floyd che usavano le luci. Gli dava fastidio all'epoca. E non è una leggenda metropolitana, è vero. Infatti, lui ha detto la più famosa discoteca. Esatto, la più grande discoteca d'Italia. Italiano. Non era solo una discoteca, era un modo per suonare musica dal vivo. È una cosa diversa. È una cosa bellissima. Adesso, chiaramente, poi se n'è andato. Cioè, Piper poi si è trasformato ed è morto. C'è ancora, però non è più il Piper che intendeva. Devo io no. Che ho una certa età. Il Piper è il luogo in cui Bob Dylan ha suonato. Era una mica una cosa semplice. Dove ha suonato Jimi Hendrix. Allora, Alfonso, domani verrai contattato dalla direzione, insomma, di Sognando Broadway. Vi metterete d'accordo per ritirare i biglietti. Grande Alfonso! Un applauso! Bravo Alfonso! Vienici a trovare, saremo anche noi lì a Brura di Veneto, lì al polivalente di Albignaso. Non abbiamo ancora detto dove si svolgerà. Mi ricordo sabato alle ore 21 al polivalente di Albignasego con i Night Lives, il musical e la compagnia Accademia. Allora, chi è che ci racconta, insomma, in sostanza la storia di questo musical? Vuoi sapere la storia, la trama o da dove è nato il tutto? No, la trama. La trama. Poi parliamo da dove è nato. Va bene. Allora, la trama, praticamente, come hanno già accennato i nostri ragazzi, la storia racconta di un ragazzo che è Christian, che vive la sua vita con il suo amico Marco, hanno un'officina insieme e lavorano a Roma. Un bel giorno vanno in spiaggia e Christian vede tra i lidi dei lidi romani che... più o meno ci sono e non ci sono, comunque va bene. La nostra Roxanne, che era in vacanza con delle amiche a Roma, mentre invece lei di lavoro fa la star del Moulin Rouge di Parigi. Però in vacanza, ovviamente, come tutti i francesi, vengono in Italia e la incontra a Roma. La sorte vuole che poi la sera stessa Christian la rivede al Piper, per l'appunto che Alfonso ci ricorda. E Marco, quasi per sfida, le dice: oh, ma guarda chi stasera la sorte ti ha portato qua. E lui decide di provarci spudoratamente, cosa che non riesce, perché non sa ballare il twist, e quindi non funziona. E quindi Roxanne giustamente gli dice: no, sei orribile, no. Per non me sai no. Beh, dice, il bravo, twist. Però per me no. E quindi da lì poi purtroppo non sa che in realtà Christian si è veramente innamorato perdutamente di lei al primo incontro, così colpo di fulmine. E poi, parlando con Marco, scopre che Roxanne è in vacanza, quindi se ne torna a Parigi. E Marco, quasi come ha detto lui, per sfida, dice: ma perché non vai a Parigi a prenderla? E lui dice: ok, vado. E quindi da lì Piazza parte tutti. Ho riassunto, no? Sì, sì, sì, riassumi bene. E quindi è partito, poi da lì non sa che in realtà il tutto viene trasferito in America, però non vorrei dire perché, o bisogna dirlo per forza. No, no, no, era solo per capire più o meno cos'è il contesto del... Sì, insomma. Perché insomma, in breve è Christian, la storia è bella perché all'inizio ci sono i due nonni, che sono Christian e Roxanne, che poi alla fine ovviamente stanno insieme. Non muoiono, stanno insieme. E raccontano all'inizio alla nipotina come si sono conosciuti e qual è stata la loro storia e come si è svolta nelle varie peripezie, eccetera, eccetera. È da lì che parte il flashback che poi ci riporta agli anni 60 e via così fino agli anni 70 più o meno. Vabbè, una bella idea, insomma. Sì, che poi in realtà l'idea è nata da un concetto più grande che mi è venuto in un'estate con mio fratello, perché era interessante che i figli ballassero le musiche dei genitori. Perché ho... Difficile questo. Tutto è nato perché ho ascoltato un remix di New York, New York, che c'è anche nel musical, e è scaturito tutto da lì. La trama è venuta un po' dopo. In realtà l'idea base era questa, cioè uno spettacolo che racchiudesse sia un pubblico più adulto, ma anche un pubblico più giovane, della mia età, ma anche più giovani, perché abbiamo scoperto che è piaciuto anche ai quindicenni, per cui vuol dire che qualcosa, pur essendoci canzoni un po' vecchiote anche, però magari hanno trovato qualcosa che gli è piaciuto lo stesso. Quindi ecco, questa è stata la storia, cioè questa è la storia di questo, esatto, musical. Questa è la trama. La trama, meglio dire. E quindi, se vi può interessare, insomma, questa è ma comunque, come capisci, è una trama molto giovanile, insomma. Sì, è una trama leggera, fresca. Le storie che vivono loro in realtà sono storie che possono avvenire ovunque e a chiunque, senza nessun scarto di generazionale. Solo che ovviamente chi ha vissuto quegli anni potrà in qualche modo capire qualcosa di più e magari ricordare attraverso loro delle cose che gli sono successe nel passato, magari rivivere dei momenti la nostra generazione, con positiva nostalgia, no? Così. Sì, è la storia di due musical, cioè di due filoni musicali, musical giovanilistici, cioè Famous oppure oppure un po' più tradizionali come Chicago. Abbraccia, io ovviamente per quando si scrive un musical da capo si va a vedere ovviamente quelli che l'hanno fatto prima di noi, certo, e dove si è arrivati. Ovviamente le ispirazioni sono state tante, tra cui quelle appunto dette da Famous. Te saranno famosi, sì, fino, certo, a Grease che sentiamo nel... sotto, quindi nel, quindi gli anni 80, all'incirca 70-80. Sì, poi perché questi sono più verso la fine del musical che si avvia verso quegli anni lì. Partiamo ovviamente dalla realtà romana del Piper, certo, dove troviamo da Patti Pravo a... Poi anche un panorama straniero che abbiamo messo esclusivamente per motivi di ballo. Chiaramente, perché Rock Around the Clock è un motivo degli anni 50. Esatto. Abbiamo citato i ballerini di rock and roll prima, sì, e Rock Around the Clock si sente in versione originale, mi pare. Esatto, sì. Approfittiamo spettacolo per ringraziare, oltre al Duvop Boogie Dancer, di cui Matteo era il capostipite, ringraziamo anche le tre menti diaboliche delle coreografie. Uno è Emanuele Bergamo, che è mio fratello, e poi anche le altre due menti diaboliche, Consuelo e Miriana Paveneto, che invece hanno curato più la parte del burlesque e quello che riguarda la parte moderno e funky, dei motivi un po' più sexy. E poi tu hai colorato con questo avvenieristico discorso delle luci, praticamente. Esatto, questo qua è un'idea che mi è venuta, che ho visto in America in realtà. Dove in America? A Las Vegas. A Las Vegas, vedi caso, quello è il posto giusto. Purtroppo, perché quello è il posto. Stavo casualmente facendo un master in animazione 3D e ero a Las Vegas e ho detto, perché non andare a vedere lo spettacolo del Cirque du Soleil a Las Vegas? Certo, sì. Visto che sono qua. E lì è successo il patatrac, ho detto, sono ritornato qua, ho detto, boh, proviamo. Allora cambio tutto e faccio le scenografie in 3D. E è una tecnica nuova che secondo me però... rende, perché vedere una scenografia totalmente sincronizzata con quello che sta avvenendo in palco, che ci offre ovviamente a costi molto inferiori quello che in realtà si hanno nei teatri di Las Vegas, insomma. poi, è positivo. E poi coinvolgere tutti i ragazzi dell'Accademia, dei piccoli e dei grandi, come giustamente parlava Diego. Sì, anche questa è una cosa interessante. Una cosa... perché abbiamo gente di tutte le età. Esattamente. Quindi è stato uno sforzo non da poco, diceva sì, Giuseppe. Prima. Non è stato facile, insomma. Poi, ovviamente, quando un progetto parte, c'è chi ci crede da subito, c'è chi ci crede un po' dopo. Abbiamo avuto chi non se l'è sentita, giuste discussioni. Chi è andato, chi è venuto. Però alla fine è uscito. È il gruppo, è il gruppo rimasto. Il gruppo è rimasto e nelle date precedenti che abbiamo fatto con Accademia sono andate bene. E quindi ci auguriamo che anche qui ci sia una buona affluenza di pubblico e che piaccia quello che... Sì, perché questo spettacolo è uno spettacolo di gruppo per antonomasia, gruppo, cioè sì. È proprio il gruppo che dà la spinta, che dà l'avanti a tutto quanto. Che a noi piace molto, quindi se, in teoria se uno lo fa con la passione ed è convinto di quello che fa, si spera che arrivi anche agli altri. Perfetto. E quante persone girano... All'interno di tra questo... tutti siamo sui 35-40 persone, tra chi è sul palco e chi è dietro e chi come me invece è sia dietro che davanti. È per tutto praticamente. Eh sì, perché purtroppo i maschietti della danza scarseggiano e quindi fa sai che c'è, ti tocca ballare anche pure te. Del canto. E quindi anche quelli del canto. È, quelli è vero. Canto. Anche quelli del canto. Scassezzano i maschietti Non è che mi dispiace e quindi, no, anche a me, però quando dicono devi ballare 17 pezzi dopo un po' sì, ma tu sei giovane, ce la puoi fare. Come fa un regista a ballare contemporaneamente? Bella domanda. Come fa un regista a riuscire bella a domanda. Dare a dare, come questa dicevi Jacqueline, vieni al microfono secondo bella domanda. Bella domanda, infatti è quello che glielo diciamo sempre anche noi, perché il regista dovrebbe fare regista esattamente e il ballerino fare il ballerino. Beh, esattamente, proprio così ha detto giusto, dovrebbe fare dovrebbe. Beh, ne sa qualcosa anche Cesare comunque, che fa regista vero? No. Però fa anche ballerino, recita, canta sì è vero così. Ma io si veste da Indiana Jones per cause di forza maggiore purtroppo è un po' a causa di forza maggiore, un po' perché c'è io... più di qualcuno che si deve sdoppiare sì. Per io avevo quindi... fatto una domanda prima a Jacqueline, ti avevo chiesto se ti ricordi, tu mi avevi già risposto, però lo diciamo anche ai nostri ascoltatori, quanto ci avete messo a fare questo musical? Allora, il tempo tra il casting e la realizzazione più di un anno di lavoro, perché siamo partiti verso tra maggio diciamo a cominciare a fare i casting e poi abbiamo sempre lavorato tutti i weekend con i ragazzi, quindi la prima uscita è stata a febbraio dell'anno successivo e quindi abbiamo lavorato sodo. La cosa bella è che i ragazzi non sono seguiti solo giustamente dai coreografi, ma c'è proprio uno staff dietro che li segue, da appunto dal coach di canto, dal coach di recitazione, da un'assistenza anche psicologica, cioè è un lavoro abbastanza intenso che cerchiamo di dare un senso anche al gruppo, giustamente, quindi non è stato semplice, però quando usciamo la cosa che ci dà la soddisfazione ci ripaga di tutti gli sforzi fatti, questo certo. Sì, assolutamente sì. E le difficoltà maggiori che avete avuto? Beh, 40, già gestire 40 ragazzi dai più piccoli ai più grandi, che molte volte sono i problemi sono più per i più grandi che per i più piccoli, non è semplice, però è proprio la gestione, il coordinamento dei ragazzi, questa è la parte più difficile, assolutamente sì. Però è anche vero, non è vero, sono tutte persone, tutti ragazzi, tutti artisti, perché li definisco tali, in quanto uscendo in un palco secondo me sono già artisti che hanno una grandissima capacità, una grande volontà e quindi ci mettono il cuore, questo sì, assolutamente, e quindi vanno premiati solo per questo, mi viene da dire, perché ci mettono il cuore e l'anima, che secondo me è la parte fondamentale. Quante rappresentative avete fatto fino adesso? Allora, fino adesso sono 5, ne abbiamo 5. Fatte quindi... e ne abbiamo altre 5 dopo questa. Quindi fino proprio... a fine anno siete ne abbiamo da lavorare. Esatto. Ma sempre lì nella zona di Treviso o venite anche da queste parti? Beh, a parte abbiamo, sabato ovviamente abbiamo Mestre, poi abbiamo Conegliano, abbiamo Cairano San Marco, quindi sì, quella è la zona, perché giustamente essendo Accademia di quella zona cercavamo un attimino di ampliare, certo, quella zona, però sì, vogliamo poi un pochino spaziare, allargarci, volevamo ci volevano portare anche a Pescara, però beh, perché no? Sì, infatti, però la trasferta costa 40 ragazzi, c'era cioè un po' un problema, ci vuole quindi il pullman. Potrebbe però essere l'idea. Però non molliamo assolutamente. Beh, sì. Magari questo è l'inizio. Aspettiamo. Certo, assolutamente sì. Certo. Allora, Sara, tocca a te cantare qualcosa adesso? Sì, oppure no? Sì, una canti? Bella canzone. Why Don't You Do Right di Peggy Lee sarebbe la canzone con cui la prima ballerina si ingrazia un po', insomma, i giovanotti della platea, ecco. Ecco. L'ascoltiamo. Hai capito? You had plenty money in 1822. You let other women make a fool of you. Why don't you do right like some of the men do? Get out of here, got me some money too. You're sitting down and wondering what's all about. If you ain't got no money, they will put you out. Why don't you do right like some of the men do? Get out of here, get me some money too. If you have a pet when ear is a girl, you wouldn't be a wandering dwarf from to dawn. Why don't you do right like some of the men do? Get out of here, give me some money too. Eccola, breve ma intensa. Avete sentito la voce molto... Give me some money. Molto leggera, molto appena accennata. A Calabria, esattamente. Però dobbiamo dire, secondo me l'arrangiamento è stato fatto, ricordava molto l'arrangiamento di qualche locale degli anni 30 e 40, assolutamente. C'è il blues che lui è, quel blues ci viene dentro, assolutamente, nel senso buono del termine. Qui stiamo, cioè, suonare dal vivo in acustico non è semplice, è difficile, e ci state riuscendo bene. Poi suonare un musical in acustico dal vivo è ancora più difficile. Quello sì, è il problema. Dimmi. No, volevo sottolineare una cosa che parlavamo prima, penso anche con Jacqueline. Voi li state sentendo adesso da qui, dal vivo, con le due chitarre, la loro voce, per carità. Però credetemi, dal vivo, cioè all'interno del musical, è tutta un'altra cosa. Quindi la musica, l'atmosfera. Noi questa sera cerchiamo di farli conoscere più che altro, insomma, questi personaggi, e di scoprire questo nightlife. Però dal vivo, cioè lì davanti al palco, è tutta un'altra cosa. Poi ci sono i costumi, ci sono le luci, è tutta un'altra atmosfera, insomma. Quindi la scelta di queste tantissime canzoni che ho visto, che spaziano dagli anni 50, quindi rock and roll, fino ad arrivare un po' più tardi, più avanti negli anni, chi è stata? Stata tua sempre? L'idea o è stata di Diego, sì, o solo tua? Alcune canzoni hanno partito. Diego cosa ci ha messo? No, qua è successo che la mia versione aveva dei pezzi base, poi nelle varie incontri che abbiamo avuto per definire un po' meglio la trama, perché nella prima versione mia la trama era molto... proprio perché l'idea di partenza era quella che ho detto prima. Sì, ho capito. Quindi era un background di tributo a un'epoca. Poi, cercando di inserire una trama che raccontasse anche qualcosa che potesse attrarre il pubblico oltre al tributo alla musica, e parlando, allora alcune canzoni sono state mantenute, altre sono state cambiate. Alcune poi sono state cambiate da poco, perché ci siamo resi conto che magari era meglio anche... conoscendo i nostri performer, sì, magari una canzone era un po' meno adatta di un'altra, allora abbiamo detto perché non inserire questa che magari esprime meglio, conoscendo anche la vocalità, conoscendo, no? Le vocalità vostre, esatto. Quindi adesso sì, questa è la versione definitiva che abbiamo e che andrà fino a fine anno. Cioè, giustamente tu hai detto verso la fine, cioè, almeno non so se la scaletta sia questa che ho qui davanti. Sì, abbiamo davanti. Cercato per quanto possibile, perché c'erano anche delle canzoni di trama, nel senso che servivano per mandare avanti la storia. La storia. Però abbiamo cercato di usare l'ordine più o meno cronologico. Ho capito. È una cosa che mi ha incuriosito, Edoardo Vianello. Come mai citate Edoardo Vianello? No, io c'ho niente contro Edoardo Vianello, assolutamente. Ma come mai citate Edoardo Vianello? Perché quando ho detto abbronzatissima. Perché cioè, eccola qua, molto sì. Se la ricordano tutti. Allora subito il background era anni 60. E ovviamente la scena dove si incontrano per la prima volta i protagonisti è la spiaggia. Certo, chiaro. Quindi abbinando anni 60 e spiaggia non poteva essere Edoardo Vianello. Non poteva esserci lui da, 40 anni aspetta. Suona sempre queste grotte e... Per carità, lo suona poi bene, ma Roma, suona sempre quelle. C'era Roma, anni c'era 60, Roma. Italia, spiaggia e Vianello. Edoardo Vianello. Beh, lui poi... è un grande musicista, ha fatto delle cose bellissime. Però continua a fare sempre queste cose, nel senso positivo del termine, non c'ho niente contro Edoardo Vianello, vero? No, confermo, perché quest'anno che ero giù al premio Bruno Lauzi e Dana Capri, c'era lui. Anche c'era lui che voleva ripetere questo pezzo. Sì, chiaro, no, ma l'ha fatto. Però la coreografia su questo pezzo è molto, molto carina. Ed è anche, pensate, ballata dai nostri cantanti. Ah, ma bene, dai, questa è una cosa che positiva. Che ballano con le pinne, quindi... cioè, si sforzano. Si provano. E la difficoltà di... io non so, il costumista, che difficoltà ha avuto a creare queste cose? Quello è un po' difficile. Anche questa è un'impresa titanica, 40 persone. Il costumista... se abbiamo... ha dato forfè, cioè nel senso che ci siamo vestiti da soli in pratica. Ah, ho capito. No, è perché parla. Sì, è lui. Ah, è non, vero, non vedo il costumista. No. Però abbiamo devo dire, abbiamo provato, però più di uno, vero? Devo però... dire che insomma si fa anche a meno, cioè, nel senso che è un musical che per fortuna non ha bisogno di un comparto costumi. Sì, di un certo livello. Di un certo tipo, livello. Come possono essere dei, magari musical tipo Giulietta Romeo, che trovarli dai cinesi è un po' impossibile. Questo è vero. È una sviolinata ai pochi soldi. Mai, No, nel senso che no, perché non è il budget, è che quando si cercano degli abiti in paillette nel giro di un giorno, mezza giornata, ovviamente i nostri negozi non sono abituati a vendere paillettoni. Ma no? Le pinne dei cinesi li puoi trovare. Le pinne sono di Jacqueline. Quelle originali. Che va in spiaggia con quelle pinne. Sono originali. Sono da competizione. La maschera era di Diego. Il tubo pure. La prossima volta potresti metterci dentro ho scritto Tamo sulla sabbia di Franco IV e Franco I. Potrebbe essere sì, l'unica cosa che hanno fatto loro è... facciamo, visto che non hanno fatto altre cose, però facciamo anche il test in 3D sulla sabbia, ecco. Però poi di fondo stiamo scherzando, anche un'altra realtà sui costumi, nel senso che la varietà dei pezzi comportava una varietà di costumi impegnativa, e non era per fare una sviolinata, anche se ci stava, però poi c'è della gente che si propone con delle cifre astronomiche per fare poche cose, quindi bisognava sviluppare di più degli altri fattori del musical, che appunto è puntare sulle voci, certo. E sui balletti, prendendo tutto questo spazio temporale è stato anche complicato dove reperire i costumi. Sì. Poi, sfortunatamente, in realtà noi avevamo uno dei nostri performer che però poi ha trovato lavoro, che fa lo stilista, e si era anche proposto, togliendosi dal cantare, a dire faccio io lo stilista per il musical, però gli hanno offerto un lavoro a Milano. Un lavoro importante. Noi di e lui è andato a Milano. Non potevamo dirgli stai qua a farmi... E quindi siamo riusciti un po' a condensare... un po' tutti hanno messo anche, è stato anche bello che qualcuno porta il suo abito, certo. E i ballerini Gabriele, Emanuele, la Miriana e Consuelo già ballando hanno già dei costumi di scena. Il problema per cui... principale era che è vero che i ballerini non sono pochi, perché sono diciamo in 18-20 persone. Il problema è che sarebbero anche pochi, perché i pezzi che noi abbiamo qua di fronte sono circa 25. Sì, quindi sono tanti, sì. Tutte le canzoni, dalla prima all'ultima, hanno una coreografia dietro, se non due. Sì. Mm-hmm. E ci sono dei cambi che vengono fatti in 40 secondi. Quindi si arrivano anche come bracchetti praticamente, come più o meno, più o meno, come bracchetti più o meno. Quindi i costumi dovevano essere anche di un certo tipo, sì, veloci. Da indossare, chiaramente. Sì, sì, infatti ringraziamo anche i ballerini, che ovviamente in radio non possono farsi vedere, però ci sono, li vedrete sabato, e li ringraziamo perché veramente fanno un lavoro sì, che insomma è un bel po' complicato da svolgere, mentre i nostri cantanti hanno i loro due abiti e molto molto scialli. Poi invece i ballerini ne hanno 18, quindi anche Cesare ha avuto dei problemi con i costumi, vero Cesare? Costumi? Quali costumi? Con i costumi, nel senso dei costumi, vero Cesare? Ma c'è sempre, costumi, c'è sempre difficoltà costumi nei da costumi. Bagno, dici? Perché anche noi abbiamo i costumi da bagno, quelli che ti pinne. Abbiamo rubato noi per fare la spiaggia. No, problemi nel senso che ci sono delle difficoltà da superare, Cesare, questo vuol dire. No, beh, certo, sicuramente i costumi in uno spettacolo come il musical rivestono, come anche tante altre parti, un aspetto molto, molto importante, anche perché, come diceva il regista, specialmente anche a noi succede che devi fare, anche se da fuori uno può vederlo come un abito semplice, in realtà se devi farlo per un cambio veloce, l'abito deve essere fatto in un determinato modo, in modo che sì, si possa strappare o comunque che si possa togliere in due secondi. Che si possa rompere, esatto, e ricomprare, esatto, senza spendere di nuovo. Infatti. Come è successo, perché ovviamente avendo una scena di striptease da fare con dei pantaloni a strap, capita che la foga del momento, no? Full Monty fa tra... e la braga va. Quindi all'inizio erano 6, poi 5, poi 4, adesso 4 e 1, uscirà senza braghe. È già pronto. Sì, lo striptease è già pronto, uno senza braghe è a posto. Bene. Allora, siete sempre sintonizzati su Blu Radio Veneto, questa è la vostra emittente preferita in questo preciso istante, perché, come piace dire sottoscritto, la state ascoltando. Vi ricordo le nostre frequenze 88.700 e 94.600 MHz in modulazione di frequenza. Ancora, il nostro numero telefonico in studio è lo 049-875-6423, mentre gli sms, ve lo ricordo ancora per l'ennesima volta, 346-2320-033. Questa è la voce di Agostino Spolore, che assieme a Maurizio Calzavara stiamo cercando di capire nel senso positivo, e di farvi conoscere, di andare nel profondo delle cose, perché un musical è una cosa di un certo peso, c'è poco da fare. Noi scherziamo, però c'è un grande lavoro dietro. Io dico sempre una frase: blood, sweat and tears, sangue, sudore e lacrime. Perché anche per fare un musical ci vuole sangue, sudore e lacrime, c'è poco da fare. Già. Cosa dici, regista, che hai sudato parecchio? Sì, ecco, io volevo salutare anche le amiche che oggi non sono qui con noi, giusto, ma sono le amiche di Roxanne, sono Amina Sandrini e Sabrina Tolomio, e Elena Lastrucci, Giulia Bergamo, che aiutano la protagonista in tutte le sue peripezie, fughe amorose, eccetera. Come il protagonista c'ha il suo amico, ci sono anche le amiche. Giustamente ci sono anche le amiche, io ne ho di più perché si sa, perché le amiche, le donne vanno sempre via sempre in tante. E quindi sono le quattro amiche di Roxanne, insomma, che l'aiutano. Perfetto, ciao. Perfetto. Ciao amiche, dovevo ciao. Dire questo, adesso può andare a casa. No, devi fare un'altra. Poi può andare. Ora devo cantare un'altra canzone. Sì, esatto, volevo proprio chiedervi questo. Adesso ci ascoltiamo una canzone ancora, sì, del musical. Sì, parlato già troppo. Cosa, chi tocca e cosa ci fate sentire? Safiria ritorna. Ritorni con tu. Voi. Esatto. E il pezzo si chiama You Haven't Seen the Last of Me. È un pezzo lento che... diciamo che è il momento in cui Safiria in un certo qual modo si lascia un po' andare, perché lei di suo è una donna, diciamo, dal polso di ferro, ecco, anche con un caratteraccio, e invece in questo momento lei ripensa un po' al proprio passato, perché ahimè anche Safiria, come Roxanne, a parte Marco, insomma, quello più fortunato, ha avuto un'infanzia e anche il resto della vita, diciamo, abbastanza complicato, ecco, infatti alla fine l'ha portata ad essere questa donna dura, diciamo, che arriva ad essere la padrona di una realtà così, così particolare come appunto il mondo del Moulin Rouge. E in questa canzone lei ripercorre un po' il suo passato, ecco, e quindi ricorda un po' le sue origini e da dove è partita. Quindi c'è il suo momento di debolezza. Sì, chiamiamola debolezza. Debolezza, è vero. Ogni tanto che Safiri accede, succede. Allora, prima che canti la canzone, Françoise, questa canzone viene cantata in lingua inglese, giusto? Sì. Ma c'è un sottotitolo, qualcuno per capire il testo, se chi non sa l'inglese durante il musical o no? Diciamo che durante il musical si capirà il momento, okay, perché appunto avverrà proprio un cambiamento da questo pezzo in poi nel personaggio di Safiria, certo. Quindi si vedrà proprio la variazione caratteriale che questo personaggio subisce, quindi il pubblico capirà istantaneamente il motivo e ciò di cui parla questo pezzo, ecco. Il discorso che dicevo prima, che un conto è sentirle così adesso radiofonicamente, un conto è essere lì e vedere, certo, il mio... esatto il titolo che in italiano "You haven't seen the last of me" significa non avete ancora visto ciò, ecco, che sono. Quindi appunto c'è anche un'altra Safiria oltre appunto alla donna con il bastone, diciamo, la parte buona, che c'è. Romantica, sì, un po' tenera, sì, tenera, se vogliamo. Ci ascoltiamo allora Safiria. Feeling broken, barely holding on, but there's just something so strong somewhere inside me, and I am down, but I'll get up again. Don't count on me, it's just yet. I've been brought down to my knees, and I've been pushed way past the point of breaking, but I can't take it. I'll be back on my feet. This is far from over. You haven't seen the last of me. You haven't seen the last of me. They can say that I won't stay around, but I'm gonna stand my ground. You're not gonna stop me. You don't know me, you don't know who I am. Don't count me out so fast. I've been brought down to my knees, and I've been pushed way past the point of breaking, but I can't take it. I'll be back on my feet. This is far from over. You haven't seen the last of me. Been all faded out. This is not the end. And I'm done, but I'll be standing tall again. Times are hard, but I've been built up. I'm gonna show you that what I'm made of. I've been brought. You haven't seen the last of me. No, you haven't seen the last of me. You haven't seen the last of me. Io non posso esprimermi, Maurizio. Ah, sì, tu fai parte della giuria, non puoi esprimerti, ma mi posso esprimere io, chiaramente. Cher non ha questa voce nera, molto nera, che hai te. E questa è una cosa molto positiva, secondo me. c'era un'altra colorazione, musica più pop. Stasera non hai fatto proprio per niente pop, l'hai fatto proprio nera, un po' Anastasia in qualche momento, secondo me. Yes. È proprio nera, e il nero, il black, dà molta colorazione. Safira è una figura forte. Questa qua è abbastanza romantico come pezzo, esatto. Però la colorazione è forte dalla tua voce, secondo me. Quindi io l'ho sentita. Sono così stasera. Assolutamente d'accordo. Diego la, sì, un po' rossa. Diego l'ha sentita così. I ragazzi qua la chitarra l'hanno. Il suono della chitarra era molto percussivo e la tua voce ci stava bene, perché è una voce nera, fondamentalmente, secondo me, fondamentalmente nera. Io volevo chiedere una cosa invece a Françoise. Tu hai altre situazioni musicali al di fuori del musical? Cioè hai un gruppo, una band, qualcosa? Beh, diciamo che io nasco come pianista classica. In primis io sono una strumentista come i due amici chitarristi qui, e quindi le mie origini sono quelle. Ho iniziato con il canto molti anni dopo, circa 10 anni dopo aver iniziato a suonare, e cantare sì, in qualche concorso, qualcosa, ho iniziato così come tutti, basta. Per il momento il musical in primis, e insomma si spera al piano, magari cosa più avanti. Al piano che cosa suonavi? Beh, io vengo dal conservatorio in ma primis, ti sei allontanata, quindi, dal conservatorio adesso? No, ho finito. Sì, hai finito, chiaramente. Ma dalla classica non mi allontanerò mai, perché quella è l'origine di tutto. Perché io mi sono resa conto negli anni che, appunto, ascoltando anche altri generi, mi sono messa a scrivere pop, a scrivere blues, mi sono avvicinata al metal sinfonico negli ultimi anni. Cos'è il metal sinfonico? Il metal sinfonico, spieghiamolo a chi non lo sa. Certo, ecco. Assolutamente. E alla fine è il rock metallo forte, però con delle sonorità orchestrali, con degli arrangiamenti fatti per Black Album di Metallica, ci può stare. Qualcosina. Black Album, qualcosa. Diciamo che per quanto riguarda il metal sinfonico mi sento di più di nominare Nightwish. Ah, ok. Ah, sì. Possiamo essere d'accordo, certo, con te. Io ti nomino Arctica, Electric Light Orchestra, che sono gli inizi. Salutiamo sempre Jeff Lynne, che è un grande. Assolutamente Jeff Lynne è un grande. Salutiamo Jeff Lynne. C'è un'altra fan. Magari, non si sa mai. Nelle vie del Signore, un'altra anche fan. Musicali sono infinite. Ringraziamo anche di Purple, famoso concerto con l'orchestra, per cui insomma. Ragazzi, quindi c'è un'altra fan, citato, molti anni. Dimmi. C'è un'altra fan che vi vuole salutare. Pronto? Sì. Buonasera. Buonasera. Vi ho sentito parlare, anzi mi sembrava di essere lì con voi, perché è un piacere sentire queste voci giovani e piene di entusiasmo. Intanto non sappiamo il tuo nome. Io mi chiamo Patrizia. Patrizia. Sì, ciao, Patrizia. Ciao, ciao, ciao Patrizia. Ciao. Forse non sono la Patrizia che e comunque volevo complimentarmi con tutto il gruppo. Grazie. Dalle voci mi sembrano piuttosto giovani. Sì. E pieni di entusiasmo, passione e anche professionalità. E mi è piaciuta molto una cosa che così hanno detto in più persone, ma anche il regista, che lo scopo era quello di fare un'unione, cioè di far vivere i ragazzi le stesse emozioni i tempi passati dei loro genitori o nonni. Trovo che affronti dei temi in musical molto importanti, specialmente in questo periodo di decadimento dei valori, e mi piace molto il fatto che inizi la storia con i nonni e questa nipotina che viene a scoprire che anche loro erano persone giovani e quindi che hanno vissuto delle esperienze molto intense, cosa che non si penserebbe mai. Patrizia, tu ci sei sabato? Ma io ho preso il biglietto e sinceramente non vedo l'ora di vedere. È contento anche Cesare di questo, Cosa? È contento anche Cesare di questo, Non lo conosco Cesare. Lo conosco. È l'organizzatore. Vedrò chi è Cesare. Comunque, complimenti a tutti e non vedo l'ora di vedere lo spettacolo. Grazie. Sicuramente grazie. Non rimarrò grazie. Delusa. Grazie, l'aspettiamo, auguri, grazie. Auguroni, buona serata. Grazie dell'intervento, grazie. Mi sembrava giusto che fosse lei a farvi questi complimenti, perché mi li stava facendo al telefono. Ho detto, aspetta, se vuoi dirlo in diretta, così l'avete sentito direttamente dalla sua voce. Sì, stavamo parlando di Jeff Lynne. Quando si parla di Jeff Lynne devo alzare in piedi, perché Jeff Lynne l'ho amato molto, anche Agostino, Agostino non si nasconde, ma Electric Light Orchestra è uno dei gruppi amati da Agostino. E Jeff Lynne è un grandissimo musicista, ma è un grande arrangiatore, un grande amico, era un grande amico di George Harrison, era un grande amico di Bob Dylan. E se tu hai citato Jeff Lynne, uno dei tuoi padri putativi musicali, noi siamo molto contenti di ciò. Ecco, vorrei sottolineare questo. Io ti faccio sentire una cosina, vediamo. Vediamo se riesci a pescare qualcosa dei Electric Light Orchestra. Eccoli qua, pezzo famosissimo. Non è questa che piace, non, a te? Non ti piace quella, non ti piace quella. Queste cose così. Questo veloce, troppo veloce. Quest'ora di sera poi. Te la tengo in sottofondo, va bene? Questo va benissimo. Ah, ecco. Allora, io invece tornavo all'altra voce femminile, cioè a Sara. Tu invece, Sara, hai altre, altre situazioni? Sì, sì, sì. Io faccio parte di anche altre compagnie teatrali e quindi faccio altri musical. Solo musical o c'hai anche qualcosa di... Non ho un gruppo, ecco. Però mi sono dedicata da sempre al, al musical, quindi è il mio scopo finale, diciamo. E, inizialmente ho studiato canto, musica leggera. Poi mi sono avvicinata alla lirica e quindi ho anche quell'aspetto classico, insomma, da coltivare, che non è cosa da poco, nel senso che è impegnativo e ci servirebbe molto tempo, insomma, da dedicarci, per essere precisi. Comunque quello che mi piace fare sarebbe il musical e quindi continuo su questa strada, mi specializzo su questo, ecco. Certo, certo. C'hai qualche canzone che preferisci, che qualche gruppo, qualche artista? Allora, ecco, sempre parlando di musical, il mio preferito è Il Fantasma dell'Opera. E quindi, che la canzone l'hanno fatta anche i Nightwish, collegandosi. E niente, soprano leggero, quindi è il, proprio il mio culmine è quello, insomma. Certo, certo. E invece Simone, eccomi. Tu invece cosa fai musicalmente? Beh, io ho sempre fatto musical da quando sono partito, cioè ho avuto esperienze corali, da piccolo ho fatto un po' di pianoforte anch'io, mi sono fermato purtroppo e me ne sono pentito col senno di poi, però insomma sai, quando sei bambino pensi solo a divertirti. E, sì, insomma, sono anch'io in altre compagnie, di cui in un'altra sempre con la Sara, quindi ci conoscevamo, quindi già conoscevamo già, sì, sì, esatto. Sì, sì. Così abbiamo lavorato anche meglio insieme, insomma. Esattamente. Abbiamo approfondito un po' l'amicizia. E dopo, per quanto riguarda gruppi, diciamo che non ho un gruppo mio, c'è una mia amica, tale Fabiola Rock, che le faccio da corista. Ah, la conosco. Ah, salutiamola. Ecco, sì, sì, sì, sì. E sì, con lei la accompagno ai suoi spettacoli, le faccio da corista sostanzialmente. Mi ha sempre detto vieni, io sempre detto sì, sì, sì, non sono mai andato. E vedi che il mondo è piccolo. Sì, sì. Però sì, sostanzialmente sono nato e con intenzione di continuare con i musical, perché mi piace molto di più sia il fatto che cambi, nel senso non sei solo te stesso ma devi fare molte più cose, certo. E poi trovo che mi dà e credo di trasmettere anche molte più emozioni e molto più svariate, diciamo, certo. Dopo ognuno ha le sue preferenze, insomma, però. Alessio? Anche la presidentessa ha fatto musical, poi la interroghiamo, chiaramente. Sì, assolutamente. Hey, la vocina me l'ha detto prima. Alessio, tu invece? Ho iniziato a studiare canto e il primo spettacolo che ho fatto è stato davanti a dei bambini, era uno spettacolo di sensibilizzazione su un tema che a me è caro, quindi erano adozioni scolastiche in Africa e ho creato questo spettacolo e portato alle elementari. Ho continuato di nuovo con i bambini, ho fatto spettacoli per i bambini, poi ho cominciato con gruppi live, musica in acustico, chitarra voce, chitarra piano, eccetera eccetera. L'anno scorso ho lavorato sempre nella musica, però con i bambini dell'asilo, in un laboratorio di propedeutica sempre musicale, e quest'anno per la terza volta comincerò un laboratorio, è una specie di laboratorio con i ragazzi delle scuole medie invece, di Scorzè. Ma non hai... Sì, di musica, di canto, di movimento, simil teatro ma molto alla lontana. E due anni fa abbiamo fatto Grease con loro. Quindi è un po' una cosa diversa dal solito. Sì, sì, esatto. Pur restando nel mondo del musical. A me piace collegare quello che studio, cioè la psicologia, un po' quindi questo rapporto che ho con la psicologia, e la musica e il canto. Quindi è la mia aspirazione per, anche per il futuro, spero. Vediamo. Presidentessa, allora, fuori la verità. Ditemi, cosa volete sapere? Ditemi, ditemi. No, ma... Voi chiedete, Maurizio. Chiedetevi sarà dato. Sì, sì, sì. Io una vocina mi ha detto che prima anche te ti sei avvicinata al musical, hai fatto musical. Anche beh, te. Prima di fare musical ho fatto canto per parecchi anni, quasi 5 anni. Ho fatto... Cosa cantavi? Musica leggera, devo essere molto sincera. Ma una preferita qualcosa? Beh, non posso dire il mio preferito, sennò qui mi odiano tutti. Cioè? Baglioni. Quindi assolutamente non posso. Era nel Piper. Era il Piper. Era il Piper. No. Quando Baglioni ha detto sono qua, lei era il Piper era già là. Ero prima. E poi ho fatto teatro per parecchi anni con improvvisazione, l'ho fatto anche con gli alcuni. Quindi ci ho lavorato, poi alla fine mi hanno catapultato proprio all'interno di un musical dove facevamo, dove tra l'altro il regista era Pierfrancesco Boschin, che è il nostro insegnante di teatro. Grazie infinite. E quindi, e poi siamo partiti con l'Accademia. E quindi penso che sia più importante questo, seguire i ragazzi, dare agli altri adesso. E invece dare spazio. E i musicisti invece hanno altre situazioni alle loro spalle? Oltre Diego, al che situazioni hai alle tue spalle? Devo dire che sì, ho avuto una situazione importante alle spalle con un gruppo. Io sono iniziato a suonare la chitarra perché l'ho trovata in casa. Mio padre mi aveva messo vicino al giradischi Creedence Clearwater Revival, Chicago, Deep Purple, Black Sabbath, e da lì... Fatto bene tuo papà, In realtà il mio primo pezzo musicale non è stato quello citato un'oretta fa, ma è stato Always Star dei Deep Purple, e da lì è partita la mia avventura, e per quasi 10 anni ho suonato metal con un gruppo con musica propria. E dopodiché... sono stato catapultato anch'io su un musical da Pierfrancesco, nel senso che la nostra presidente è stata messa dentro come comparsa, e io ho visto la situazione disagiata dell'audio, gli ho detto forse è meglio che uscite con un impianto diverso, e da lì è nata la realtà del musical. E poi è stato molto bello, abbiamo creato Accademia per formare dei professionisti che siano professionali, e soprattutto l'idea del musical per aggregare tutti quanti. E devo dire che prima non sono riuscito a dirlo, ma una cosa che vedo del musical, e sono molto contento, che le svariate età dei ragazzi, dei più grandi, dei più piccoli, si sono praticamente amalgamate al 100% per fare qualcosa di diverso, che anche per me era fuori da ogni mia conoscenza musicale. Si è creato un bel gruppo, insomma. Esatto. Siamo cresciuti insieme. E da lì diciamo che adesso noi continuiamo con la testa su questo bellissimo inedito e cercare di sviluppare soprattutto il lavoro con i ragazzi, che ringrazio, e mi capita poche volte di poterli ringraziare. Questa penso sia l'occasione migliore, perché il casting che abbiamo fatto ci hanno portato praticamente tutti i cantanti che vedrete e i ballerini al primo casting, che è stato un po' massacrante, però devo dire che abbiamo trovato delle voci. Dici che è stato massacrante solo perché ho fatto un volo per arrivare, ma comunque sì. Però sono molto soddisfatto, perché il livello vocale, il livello di preparazione dei ballerini è molto elevato, e devo dire che anche i più piccolini sono stati molto bravi a esserci per un anno e mezzo, a fare prove alla domenica, che si sa che con la scuola è l'unico giorno libero possibile, insomma. Abbiamo citato, tu hai già parlato un secondo, però puoi leggermente ampliare il discorso, che avevi citato il blues, il tuo gruppo di blues. Sì, in realtà è una fusione, cioè il blues, il funky, il soul, il soft rock dentro, perché no, anche qualche cenno di pop. Sono i Mad Blooms, se mi stanno ascoltando li saluto, ecco. Salutiamo. Ciao! Ciao! Beh, se avete un disco potete farcelo sentire e passare per questa emittente. Ma non ce l'avamo già parlati. Bene, non si preoccupare, ho già pasturato la zona. Va bene. No, questo era la tua realtà, insomma, praticamente. Sì, niente, ho cominciato da piccolino a 11 anni con la classica, come insomma un iter comune abbastanza, certo. No, di tante persone. Dopo ho abbandonato la chitarra classica per passare al basso, in realtà, perché è un altro strumento e l'ho suonato fino ai 16 anni, per dopo ritornare alla chitarra elettrica. E purtroppo mi ero anche già iscritto al conservatorio col contrabbasso, per cui suonare il contrabbasso al conservatorio e suonare la chitarra elettrica in un gruppo punk, tra l'altro, per cui bellissimo. È bellissimo in ogni caso. Vabbè, sì, vedi anche la cresta. È appunto. E sì, era un po' così, insomma, ho abbandonato anche il contrabbasso per dedicarmi alla chitarra, ecco. E poi hai fatto molto bene. Ecco, sì, lo so, ne sono consapevole. L'esperimento è riuscito benissimo. E nulla, ho attraversato un po' di generi, ecco, diversi tra di loro, anche perché, ecco, appunto, quando suonavo il basso ero anche all'interno di un coro gospel, per cui, cioè, c'era sempre il blues dentro, no? Cioè, comunque, in tutti i generi che ho suonato c'era sempre la vena blues, no? Ecco così, e dopo, sai, incidi le tue cose, fai i tuoi live, piccoli, grandi che siano, e insomma adesso ho i Mad Blooms e stiamo facendo un bel percorso e in bocca al lupo. Mi ritrovo anche qui, e così da un giorno all'altro. Così, senza, però bello, sì, era avventuroso come. Io volevo sapere quante canzoni avete ancora da farci sentire. Una, quindi la teniamo per ultima. Giusto, adesso però mi recitate un pezzettino, quello che volete voi, non ce l'avete? Una scena, quello che volete voi. Quello che volete, non fate, magari tutti e quattro insieme ci siete su un momento. No, purtroppo non ci siamo tutti e quattro. Prima due e poi gli altri due. Vabbè. Facciamo io e te, Ale, che scena vuoi fare? Io reciterei il pezzo di Silenzio, quello in mezzo. Cosa potremmo fare? Facciamo quella del bar. Ah, sì, quella che è una scena un po' particolare. Quando arriviamo al Piper, ormai abbiamo visto anche che dal nostro amico che ha vinto i biglietti, io vedo Roxanne, io ci provo molto ardentemente, come abbiamo detto prima. Ad un certo punto lei mi tronca sul nascere e io cerco di rimediare portandole una rosa, no? come si fa tutti. Lei però non è ancora convinta, prende e se ne va. E io resto lì con in mano il un pugno di mosche. Si dice il bidon da noi. Allora vado da Marco, il salvatore. Prego. L'ha persa, Marco. Uh-huh. Marco, dai, smettila di guardare le altre ragazze. Marco, no, l'ho persa. Guarda, io preferisco quella con i capelli rossi. Marco, l'ho persa. Cosa hai perso? Come cosa? La ragazza della spiaggia. Uh-huh. Mi parte per Parigi e io resto qui da solo, come un cane. Quanti problemi che ti fai per niente. Dai, ti sei guardato intorno. Siamo al Piper. Te ne troverai un'altra. Ma io non voglio un'altra, voglio lei. Ancora con quella faccia, dai. Senti un po', non è che magari te ne sei innamorato? Ma no, dai, Marco. Oh, sì, che ti conosco, il cucciolone, se ne è innamorato. Ma dai, Marco, non so neanche come si chiama, come faccio a innamorarmene, dai. Dai, senti, ho un'idea. Se ci tieni tanto, perché non vai a Parigi a cercarla? A Parigi, dai, Marco. Tanto, com'è che hai detto che si chiama? Non lo so come si chiama. Oh, ma non so neanche come si chiama. Ma così sarà ancora più facile trovarla. Ma a Parigi, ma stai dicendo che devo andare a Parigi domani? Ma Marco. Certo, guarda, ti presto anche la mia lente di ingrandimento, così vai meglio a seguire le tracce. Cosa ne dici, dai? Sai cosa c'è, Marco? È che hai ragione. Domani prendo il treno e vado a Parigi. Ma ho deciso. Marco, sei un vero amico. Grazie, Marco, grazie. Ma domani vado a Parigi. Vado a Parigi. Ma io scherzavo. Ecco, hai capito? Cabaret, sì. E invece, Sara, ce l'hai qualcosina? Una battuta con qualcuno? Sì, dai, qualcosina. Basta tra le due. Sì, diciamo basta. che tra le due donne del c'è un Moulin po' di Rouge, rivalità. C'è della pesante rivalità. E diciamo che questo è il momento in cui Safiria annuncia con i suoi modi gentili e soliti la partenza dalla Francia per gli Stati Uniti. Prego. Allora è vero, Roxy. Pensavo di conoscerti, ma mi sbagliavo. preparati, domani partiamo per Broadway. Come domani a Broadway? Domani. No. E non rivedrai mai il tuo amichetto. No, raggiungerò presto, Roxanne. No, portatelo via. No, Christian! Morto. Sparano a vista i cecchini proprio. Senti Simone. No, io posso dire una cosa? Prego. Abbiamo nominato poco, però io vorrei davvero ringraziare Pier Francesco che ci ha. Sì, Pier Francesco. Un applauso grande a Pier. Salutiamo Pier. Ci ha creato proprio davvero quello che si dice creare dal vivo le scene, cioè con noi, con la nostra personalità, portando fuori quello che c'era dentro di noi e potevamo portare fuori, quindi davvero lo conoscerò anche io adesso. Assolutamente anche... Alessia ha lanciato nel twist perché sì. È arrivato proprio anche grazie a Pier. Anche grazie a Pier, infatti grande Pier, potresti essere più convincente in scena. Conquistarla subito, infatti finisce prima adesso, perché adesso quel nuovo twist finisce subito. Lei accetta, dice va bene. No. Senti Gabriele, perché la gente deve venire sabato a vedere il vostro musical, Gabriele? Perché oltre a quello che abbiamo detto finora, perché abbiamo puntato sul ballo, stranamente. Tutti i musical in generale, sia quelli un po' più vecchiotti, anche quelli nuovi, tendono a puntare su canto e recitazione. Però non dimentichiamo che un musical è fatto di tre discipline, quindi manca la danza. La danza è forse la più difficile da portare in scena, perché ha tutto un background. Intanto bisogna avere dei professionisti in grado di insegnarla. Cioè, è una cosa che anche il canto è difficile, però la danza presuppone uno studio alle spalle che arriva un po' dopo il canto. Il canto arriva con gli anni, c'è uno studio dietro, ma la danza prevede dei, almeno secondo quello che penso io, perché venendo dal ballo poi il canto io non lo faccio, per cui so. Però quello che vedo io non ho mai visto un musical con un comparto danza di livello alto, e invece qui abbiamo cercato di puntare su quello, e le coreografie, ovviamente i ballerini sono tutti felici di questo perché si sono dovuti massacrare, però le coreografie sono veramente belle. E poi adesso la scenografia, spero di aver dato una curiosità, cioè vediamo sta roba in 3D, sì, che viene infatti fuori, no? E quindi solo per quello bisogna... E poi perché, come avete detto già voi, è un musical inedito, quindi se andiamo a vedere con piacere quelli già fatti che le compagnie ci propongono e vengono bene, perché non vedere qualcosa che non vedremo mai più? Certo. Ecco, vorremmo fare giusto due interventi appunto su questo argomento. Sia io che la che i cantanti adesso. Sì, bella, noi sì, adesso no. Mi uccidono. Esatto. No, io invece. Io invece, al contrario di quello che pensi te, 30 dire... secondi, perché se ci arriva il collega. C'è pubblicità. Allora, molto velocemente, io arrivando già da altre esperienze, come detto prima, devo dire che effettivamente di solito nei musical c'è un solo corpo di ballo e che comunque non fa moltissimo. Invece, qua addirittura ne abbiamo tre su tre stili diversi, che effettivamente forse in certi punti è anche un pelino troppo. Forse no, però ci sta molto bene e dà molta più vivacità. È certo. Tutta un'altra cosa, certo. E quindi venite a vederci sabato al Polivalente ad Albignasego, vi aspettiamo numerosissimi. Fa le autografi Safiri, sì, con sì, le foto. Sì. Io mi faccio e la foto, battete poi tanto le mani che dobbiamo vincere, certo. Col bustino anche. Senti, le considerazioni finali invece a Cesare credo siano doverose. Cesare, se ci vuoi di nuovo raguardare un po' su quello che è la tua creatura. Niente, allora, beh, come hanno già detto loro, sabato sera vi aspettiamo tutti alle 21 al Palazzetto Polivalente di Albignasego. I biglietti sono popolari, popolarissimi per spettacoli del genere, e questo non lo dico io, ma lo dicono le persone che vengono a vederli. 10 euro l'intero, 5 euro ridotti. E spero anch'io che vengano molte persone, anche se abbiamo già avuto molte prenotazioni, perciò sono sicuro della riuscita anche di questa data. E ricordo che oltre alla giuria tecnica di cui Agostino fa parte ci sarà anche il pubblico che potrà votare lo spettacolo di questa sera e anche le altre date, perciò vi aspettiamo sabato sera in bocca al lupo allora, anche esatto, per questa terza edizione. I vostri dati, cioè se qualcuno volesse contattare il vostro sito e quant'altro. Allora, i nostri dati, cioè se non erro, dall'altra parte c'è una grandissima Eleonora Magri che ha tutti i dati. Vero, Eleonora? Vieni qua, vieni qua. Vai, finalmente sentono la tua voce. Ciao vai. A tutti. Allora, Accademia è in via Fonderia 103 a Treviso. Ci potete chiamare al telefono allo 0422 423692 e ci trovate anche su Facebook. Stia cercando il musical Night Lives, che c'è la pagina ufficiale, sia Accademia. Quindi vi aspettiamo poi sabato numerosi. Esatto. Grazie ancora Eleonora anche per la collaborazione con il sottoscritto e con Blu Radio Veneto, ovviamente con te. Va bene. Allora, abbiamo finito perché è arrivato il collega. Io devo ringraziarvi innanzitutto di cuore di essere venuti qui questa sera. Grazie a voi. Vi faccio il mio in bocca al lupo. Crepi. Perché insomma spero che sia una bellissima serata di musical. Di non musical. Dico, non dico altro perché non posso esprimermi. Maurizio, se vuoi dire due cose, che è arrivato Renato. Sì, voglio dire che tu non puoi esprimerti, no, primo. Esatto. L'ho già detto. E un'altra cosa dobbiamo ribadire. Abbiamo già detto all'inizio che essendo un musical inedito, è una cosa molto interessante, è una sfida, secondo me è stata vinta, io l'ho sentito in questo momento, stasera, qui dal vivo, è un'idea interessante che potrà essere sviluppata, è uno spettacolo che potrà sicuramente interessare nel senso più ampio del termine, momenti giovani di musica degli anni 80, degli anni 60, degli anni 70, ma soprattutto una storia che coinvolge, secondo me, quindi ben venga e vi aspettiamo tanti, quindi sabato prossimo. Allora un grazie a Gabriele Bergamo che grazie è il regista. A voi, grazie a voi, un vi grazie, aspettiamo, ciao a tutti. Un grazie a Diego Nardini che è il direttore artistico, grazie, aiutato da Marco Tonello alla chitarra dei Mad Blooms. Grazie. Un grazie alla presidentessa Jacqueline Cecchetto, grazie infinite. E poi un grazie ai cantanti, cioè Alessio Bellato in ciao. Arte Christian, e l'altro è Simone Daminato, ciao Marco. Le due femminucce, teniamo per l'ultima Safiria perché mi sta guardando male. Allora, Sara Semenzato. Eccomi, grazie a tutti. Roxanne, invece, sto scherzando, Safiria, ci mancherebbe. François Emmanuel. Safiria. Safiria. Grazie a voi. Buona allora, serata. Ci vediamo sabato. Sabato, sì. E invitiamo anche i nostri ascoltatori a venire. Io spero che siamo riusciti, quantomeno, insomma, a dare un'immagine la più possibile, larga, vasta, insomma, di questo su che YouTube è. Su YouTube c'è qualcosa, se qualcuno sì, vuole guardare qualcosa oppure prima vi contatta. Oppure sì, ci chiama, insomma. Oppure contatta anche direttamente la direzione di Sognando Broadway. Vi ricordo ancora, Blu Radio Veneto Media Partner, l'appuntamento è sabato alle ore 21 al Polivalente di Amiasio. Adesso ci salutiamo con che canzone? Con che canzone? Con Dare to Live. Dare to Live. Un Dare duetto amoroso. Yes. In bocca al lupo, ragazzi. Crepi. Crepi. E ciao. Ciao. Try looking at tomorrow, not yesterday, and all the things you left behind. All time that was, you did not say. The gentle touch you could find. In these days of nameless faces, there is no one true but only pieces. My life is all I have to give. Dare to live until the very last. Dare to live, forgetting all the past. Dare to live, giving something of yourself to others, even when it seems there's nothing more left to give. Ma se tu vedessi l'uomo davanti al tuo portone e dormi avvolto in cartone, se tu ascoltassi il mondo una mattina senza il rumore della pioggia, immensi pensieri della gente, poi di Dio c'è solo Dio. Vivere nessuno mai ce l'ha insegnato, vivere non si può vivere senza passato. Ci sarà qualcuno che la canterà, perché searching for the ones we love questa sera, perché no one but only vivi ora, perché la vita non è vita, perché l'hai vissuta, vivere. Perché la vita non è vita, perché non l'hai vissuta mai.